Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, domenica di gelo e di polemiche, è un classico di questo periodo, ma non solo per quanto riguarda il freddo. Tra fine gennaio e primi di febbraio si registrano sempre scosse abbastanza forti per quanto riguarda le polemiche di stampo arbitrale, che poi sono le principali di questo mondo. Ovviamente ciascuno tira l'acqua al mulino di pertinenza. Nel pomeriggio è attesa la sentenza del giudice sportivo Tosel sul caso Ibrahimovic, quindi o due o tre o chissà quattro giornate di squalifica. Beh, certo, se valesse la recidività, che invece credo non sia un parametro che viene preso in considerazione, i numeri salirebbero in maniera esponenziale, visto che Ibrahimovic, non dico a ogni stagione, ma quasi, sbrocca, no? Lo scorso anno sbroccò due volte, comunque alla terza espulsione, sempre per fatti di una certa gravità, con il Milan, squadra in cui gioca da un anno e mezzo. Nel frattempo è arrivata una delle sentenze attese per oggi. Certo, è arrivata con 500 giorni circa di ritardo, ma è arrivata della sentenza del TAS, l'avete sentita dal giornale radio, che ha condannato a 2 anni di squalifica Alberto Contador e che quindi ha azzerato le sue vittorie al Tour del 2010, circostanze in cui fu trovato positivo al clenbuterolo, e poi al Giro d'Italia dello scorso anno. Quindi sono due ennesimi ordini d'arrivo finali riscritti in questo povero sport falcidiato dal doping. La squalifica Contador si concluderà il 6 agosto di quest'anno 2012, per cui non potrà partecipare né al Giro né al Tour né alle Olimpiadi. Allora, cominciamo a ripassare, in attesa dei vostri interventi all'800 24 00 24, a ripassare in crescendo le principali polemiche derivate dalla giornata di ieri. Il primo intervento è quello del direttore sportivo della Lazio, Iglitere, che contesta il fatto che si sia disputata la partita sul campo ghiacciato di Marassi. Abbiamo cercato fino all'ultimo momento di rinviare la partita, perché voi sapete molto bene cosa è successo a Roma in questi giorni. Noi da dopo la partita contro il Milan non abbiamo potuto allenarci, non ci siamo allenati neanche una volta, non abbiamo potuto preparare la partita nel miglior dei modi, e tutti i giorni abbiamo cercato e siamo stati in contatto con la Lega e abbiamo cercato il rinvio della partita. Non è possibile giocare in un campo ghiacciato, è in rischio, diciamo, la vita, gli infortuni di tanti professionisti. Un nesso tra quello che Tares sostiene, e cioè che la Lazio non si era potuta allenare nei giorni precedenti, e quello che è accaduto sul campo, oggettivamente c'è. Due giocatori della Lazio hanno accusato, anzi tre giocatori della Lazio hanno accusato infortuni di origine muscolare, uno nel riscaldamento, Hernanes, e due a partita in corso. Possibile, forse probabile, non lo so, che proprio una mancata e adeguata preparazione nei giorni immediatamente di vigilia abbia causato questi infortuni. Saliamo di livello e arriviamo al tariffario da applicare a Ibrahimovic per la sua ennesima bravata. Sentiamo Galliani. Stiamo schiacciandoli ed è venuto fuori questa roba zoniga terra, ma è inutile recriminare, e leggo già cose catastrofiche, cose eccetera eccetera. Non c'è nessuna violenza, quindi non si può, io credo che non potrà avere più di 2 giornate Ibra, perché non c'è certamente condotta violenta, quindi leggo già Sky che fanno pronostici e fenomeni. A proposito di fenomeni, non è il solo intervento, come dire, preventivo, no? che è stato effettuato ieri, ma direi che oltre è andato il direttore della Juventus, Marotta. Ritengo invece che è tradizione che nel mondo del calcio da sempre, quando la squadra è prima in classifica, venga diretta da un arbitro internazionale. Internazionale significa sinonimo di esperienza. Quindi se rimarco una cosa e quindi esprimo una critica, una valutazione su questo operato di Peruzzo, è l'inesperienza, perché l'inesperienza l'ha portato a non vedere, come dice lui, il rigore, in quanto forse lui aveva seguito ciò che avveniva in area, ma soprattutto non aveva forse il coraggio di decretare e sanzionare un rigore che veniva sanzionato qualche minuto punto dalla fine. Ma comunque il mio richiamo è, ripeto, che squadra prima in classifica deve essere attenzionata meglio nell'ambito di quelle che sono le designazioni, perché le pressioni sono sicuramente tante. La tradizione, il calcio, la storia dice sempre che nelle designazioni vengono sempre dati arbitri di esperienza. Insomma, già quell'attenzionato, no? Una squadra che deve essere attenzionata meglio è tra il giallo e il rosso come colore di cartellino. La storia semmai insegna che è fuori casa che le squadre, che le grandi squadre, che le squadre di vertice vengono tutelate semmai dalla presenza di un arbitro internazionale. Gli ha già risposto il designatore arbitrale Braschi ieri sera ai microfoni della Domenica Sportiva. Marotta chiede rispetto, non capisco cosa voglia dire, il campionato viene giocato da 20 squadre, non solo dalle prime e dalle pretendenti allo scudetto. Tutte le formazioni meritano lo stesso tipo di rispetto, dalla Juventus al Novara. Ripeto, in attesa dei vostri interventi cambiamo capitolo, perché c'è notizia di ieri ma poi perfezionata stamane, c'è il rinnovo del contratto di De Rossi alla Roma, che la Roma stessa ha festeggiato sin da ieri nel migliore dei modi, travolgendo una delle peggiori Inter della storia. Vi anticipo soltanto un numero di tra i tanti che Franco Piantanida ha preparato anche per oggi e su cui poi mi soffermerò più avanti. Per la prima volta nella sua storia l'Inter ha subito 4 reti per 2 partite consecutive, non era mai accaduto nella storia dei campionati. È vero che nel 2000-2001 fece peggio, quando alla 30esima e 31esima prese 9 gol, 6 dal Milan e 3 dal Parma. Però insomma, diciamo che 4 e 4 come analogia non era mai accaduto. Così tanti gol di scarto alla Roma, all'Inter per giunto la Roma non riusciva a rifilarli da 70 anni, dalla stagione 41-42, quando finì quando il Roma-Inter di quell'anno di guerra finì addirittura 6-0. Vi dicevo della novità perfezionata stamane, che è il contratto il prolungamento del contratto di De Rossi per altri 5 anni alla Roma. Ha parlato a lungo stamane De Rossi, mi pare che il suo intervento più significativo riguardi Luis Enrique. Lui è stato, credo, fondamentale anche per una sorta di, forse ha riacceso ancora di più, se ce ne fosse bisogno, quella fiammella che credo che tutti i calciatori abbiano bisogno di questa spinta. Dopo 6-7 mesi credo di poter dire tranquillamente che forse è l'allenatore migliore con cui io sia mai stato, forse è l'allenatore che mi fa star meglio anche a livello tattico, a livello di gestione, a livello di ritiri, a livello di trasferte, a livello di tutto. Ogni sua decisione, ogni suo atteggiamento mi trova sulla stessa lunghezza d'onda, e questo non è assolutamente poco, anzi. Sembra veramente un grande complimento quello che De Rossi rivolge a Luis Enrique, e dato che non ha bisogno De Rossi, soprattutto il De Rossi tornato a essere il vero De Rossi, non ha bisogno di captazzi o benevolenze, immagino che questo sia davvero quello che pensa lui, e la sensazione è che giorno dopo giorno sia quello che pensa la squadra, fermo restando che quella povera difesa giallorossa che si era vista nelle ultime giornate priva di De Rossi, con De Rossi a fare da frangifluti, a fare da uomo ovunque in quel settore del campo, sia pure contro una povera Inter, comunque si è vista quale sia la differenza. I messaggi sono tanti, finora il più spiritoso è quello di un tifoso romanista che interviene e scrive: sì, quel che dice Tara è giusto, infatti la Roma, allenandosi a Roma sotto la neve, ne ha fatti solo 4 all'Inter. E poi ce ne sono tanti altri che con la, insomma, cercherò di integrare di alternare ai vostri interventi. Sentiamo ancora qualche riflesso della domenica, in particolare andrei su Miccoli, perché mi pare che Miccoli, qui ripesco i numeri di Franco Piantanida, sì, è il 10° gol in campionato per Miccoli, quindi comincia a essere una bella cifra tonda, significativo, che ha messo il piede in tutti gli ultimi 10 gol del Palermo, tra quelli firmati personalmente e quelli che sono frutto di suoi assist. E allora il commento alla giornata di Miccoli. Sì, sto bene perché comunque mi sto allenando con continuità, cosa che magari prima non riuscivo a fare, quindi sto bene, però spero di continuare così, dai. Non facevo 3 partite in una settimana ormai da tanto tempo, però sono contento. Ma penso sia scontato dedicare un po' questo traguardo a tutti i miei tifosi. Oggi veramente è stato bello, è sempre un'emozione particolare scendere in campo qua al Barbera. Beh, non che a San Siro non si fosse divertito con quella tripletta, tra l'altro, di 3 gol, uno più bello dell'altro, di gol davvero d'autore. Ha chiamato Davide da Torino, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Dica. Senta, io volevo fare una considerazione. Io sono un tifoso della Juve, tifosissimo, però questa strategia che ha questa società, a partire dal presidente con la solita storia degli scudetti e destra e sinistra, poi sono scandalizzato dalle parole ieri di Marotta, dove ha detto ci vuole rispetto. Ma cosa intende lui? Che vuole il rigore per forza? L'arbitro può sbagliare tranquillamente, come c'è stato col Catania, col Cagliari, che c'erano 2 rigori clamorosi per il Cagliari. L'arbitro, per fortuna nostra, non ha visto. È inutile che il signor Marotta vada a dire per un rigore. Col Siena non si è vinto perché si è giocato non bene e il Siena si è difeso. Ogni volta con queste scuse verso gli arbitri. Tutti Mazzarri, Allegri, tutti quanti, Mourinho addirittura dalla Spagna, che quando incontra il Barcellona non vede mai palla, è una volta l'arbitro, una volta... Cioè, queste continue lamentele, cioè, dopo un po' a me mi stufano. Davide, lei ho paura che sia una mosca bianca, per fortuna ce ne sono ancora. Lei ha già ricordato quello che è inevitabile ricordare a Marotta, che ha perfettamente ragione a lamentarsi di ieri, così come ha ragione Conte, come ha ragione chiunque. Cioè, ieri è stato commesso un evidente errore ai danni della Juventus, Vergassola salta con le braccia abbastanza larghe, la distanza rispetto al cross di Chiellini, al pallone messo dentro da Chiellini è abbastanza notevole, e quindi toccandola col braccio, questo integra la concessione del calcio di rigore. Però appunto, e sono passate 3 settimane da un Juventus Cagliari in cui gli episodi di questo segno, anzi uno anche leggermente più significativo, erano stati invece a vantaggio della Juventus. Grazie Davide. Giuseppe, provincia di Messina, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini. Dica. Mi sa che anch'io sono una mosca bianca, perché Davide da Torino mi ha anticipato metà del mio intervento. Anch'io penso che ieri Marotta ha perso un'occasione per stare zitto. Ma sarà Marotta o sarà magari che gli tocca fare il ventriloquo di non so, di qualcuno, magari del presidente, che preferisce non esporsi personalmente, ma che non so, mi domando, perché insomma tra il Marotta di Genova e di altre, Genova sponda sandoriana, e di altre esperienze precedenti, insomma, e questo mi sembra che ci sia una discreta discrepanza al di là, dicevo, dell'uso del verbo attenzionare, che non mi risulta figuri in nessun dizionario, ma insomma mi sembra diverso come atteggiamento. Lei che dice? Sì, però voglio dire, si parla sempre di cambiare stile, di mettere una pietra sopra al passato, invece ogni puntualmente ricadiamo nei soliti errori. E poi, se mi permette, una cosa velocissima dal punto di vista tecnico-tattico. Conte a fine partita diceva che sarebbe servita una giocata individuale di un giocatore, di un fuoriclasse. Io penso che un Del Piero ieri, degli spazi stretti, sarebbe stato più utile rispetto a giocatori magari che hanno più velocità e più fiato, ma lui però negli spazi stretti il guscio, la trovata la poteva sempre trovare, inventarsela. Lei cosa ne pensa? Penso che la penso come lei, e aggiungo il fatto che lei dice più che non dei giocatori veloci. Io dico che Boriello non è nemmeno veloce, e sinceramente continuo a domandarmi che cosa mi rappresenti, no? Dal punto di vista delle alternative. Danilo ha chiamato da Genova, buongiorno. Buongiorno Garanzini, grazie per l'opportunità. Niente, io volevo un suo parere autorevole su queste mie 2 considerazioni. Sono interista e diciamo la batosta di ieri di Roma, me l'aspettavo, perché e onestamente una rosa questa che l'età media si aggira fra i 33 e i 34 anni e giocare tre partite in una settimana, insomma, era abbastanza fisiologico perdere con una squadra come la Roma che, diciamo, sui giovani punta molto. E niente, volevo chiederle anche questo, secondo me più di una, di un'onestissima qualificazione all'Europa League e sarebbe già oro un quarto di finale di Champions League, ma ho i miei dubbi perché la squadra di Deschamps corre molto, io penso che questa squadra non possa chiedere di più. E l'ultima considerazione, ho sentito parlare, ho letto sui giornali questi giorni sul valore di quanto incide un allenatore in una squadra, secondo me diciamo il valore di un allenatore si misura dal materiale a disposizione e dai risultati ottenuti. La ringrazio e l'ascolto per radio. Grazie, grazie a lei Danilo. Sì, insomma, quando il valore del, non il valore, l'incidenza di un allenatore nel rendimento di una squadra è uno di quei grandi temi per sollevare ampi dibattiti e per muovere l'aria fritta, insomma, nel senso che quando proprio non c'è nulla di meglio di cui parlare si arriva a questo. Mi pare che l'ultimo a sollevare questo tema sulla Gazzetta dello Sport sia stato Lippi, e Lippi ultimamente alterna interventi di questo spessore, rivendicando ovviamente un valore più alto, una percentuale più alta rispetto a quella che normalmente viene attribuita agli appelli, no? A nazionali estere, in maniera che si ricordino, per far sì che si ricordino di lui. Dunque, Juventus, Milan e Inter senza gol contemporaneamente non succedeva dal 28 ottobre 2001. C'era stato allora un Juventus-Inter, un confronto diretto 0-0, un Milan-Bologna 0-0. Erano più di 10 anni che non accadeva una cosa di questo genere. Dopodiché, e questo comincia a essere quasi storia, no? Stiamo parlando di 10 anni, diciamo pure che è storia. E ancora cronaca invece, ma magari nella storia rientrerà, il Siena è la prima squadra che non subisce gol nel nuovo stadio della Juve, nello Juventus Stadium, e d'altra parte l'ultimo 0-0 casalingo per la Juve risaliva anche lì a 3 anni fa, ad un derby 0-0 con il Torino. Riccardo ha chiamato da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, complimenti per la trasmissione, la pacatezza. Allora, io sono la terza mosca bianca perché ho già trovato due juventini, mi vergogno un po' di quanto ha detto Marotta, si figuri che ho un sardo che lavora con me e quindi non potevo neanche dire mezza parola dato che gli abbiamo rubato 2 rigori 3 settimane fa. No, io le volevo dire questo, e a parte Marotta che confermo, appunto, mi ha fatto un po' tenerezza quanto ho detto, perché insomma alla memoria è corta. Per considerazione, Gagliani mi dà un po' fastidio, è stato presidente di Lega fino all'altro giorno, adesso fa il giudice lui, non vorrei vedere che sia lui a mettere le squalifiche ai giocatori, è un po' di buon senso secondo me. Io gli darei 5 come giudice per arrivare a 4, ma non perché per far saltare la partita Ibrahimovic, ma per dargli il contentino a Gagliani di una giornata di squalifica. No, su Conte più che altro, non vorrei che Del Piero non giocasse, così il prossimo anno va via tranquillo e ha vinto magari lo scudetto senza Del Piero. Nel senso, mi sembra che sia proprio voluto non far giocare Del Piero, anche quando ci sarebbe bisogno, come per far vedere che senza lui si vince lo stesso. Magari questo può essere anche un po' a danno, perché ieri Del Piero ci stava anche da fermo. Anche da fermo. La giocata tipo con la Roma. Ma certo, cioè, quello che dicevo prima, per vedere fermo Boriello, io credo che nella Juve qualcosa di più da fermo possa ancora fare, da fermo che poi non è fermo, possa ancora fare Del Piero. Sono anch'io bianconero, sono davvero tanti quelli che non hanno gradito le parole di Marotta. Sono anch'io bianconero, scrive Francesco da Milano, e sono d'accordo con lui. Vorrà dire che invece che mosche bianche siamo mosche bianconere. Carina come cosa, ma soprattutto finora è una sorta di plebiscito, sicché pregherei uno juventino ultra o anche non ultra, semplicemente che la pensi in maniera diversa, di intervenire in maniera da riequilibrare un po', perché sennò sembra che stiamo ospitando solo questo genere di interventi, e invece finora così è andata, cioè sono arrivate solo opinioni di questo genere. Sentiamo ancora una voce prima di arrivare al secondo intervallo, quello più lungo per la borsa. Io sentirei Borini, perché insomma 2 gol all'Inter, e tra l'altro mettendo a sedere una volta Samuel e una volta Lucio, non sono esattamente un brutto biglietto da visita. Sicuramente rompiscatole anche oggi un po', perché pressare alto tutti insieme non è mai facile, e altri attaccanti, cioè non tutti gli attaccanti riescono a farlo con la voglia. Siamo stati bravi tutti e tre davanti, io, Francesco ed Eric, e la squadra ci seguiva bene, quindi questo ha dato molto supporto alla squadra e anche per i miei due gol. Sì, è una spinta in più che ti danno giocare contro dei grandi campioni che hanno vinto tutto qualche anno fa, dà la carica sicuramente, hai una voglia in più, una grinta, cattiveria e tutto quanto. Quello forse ha fatto la differenza, però fa anche la differenza tenerlo con le squadre un po' minori. Siamo arrivati per l'appunto all'intervallo, poi la statistica è salva perché arriva un messaggio da Bergamo firmato Beppe, dice: adesso ci sono anche gli ascoltatori che si fingono juventini, pagliacci, ma a me non sembravano proprio tanto finti, caro Bergamo, caro Beppe da Bergamo, e non li ritengono nemmeno i pagliacci, mi sembra che siano invece in grado di ragionare con il loro cervello senza dover necessariamente essere attenzionati dal pensiero unico di Marotta. Giusto per informare, scrive Stefano da Pordenone, ieri a Sky Marotta ha ammesso che per il Cagliari i rigori ci stavano, i rigori, non il rigore, ci stavano sì, però allora non si capisce la teoria, soprattutto quella che, ecco, davvero si capisce poco, è questa teoria per cui non tanto che la Juve meriti rispetto piuttosto che il Cagliari, che gli ha già risposto Braschi, ma la teoria secondo cui chi è in testa alla classifica dovrebbe sempre avere arbitri internazionali. Allora, ieri Peruzzo, che ha 31 anni, era la 36esima partita in Serie A, quindi non proprio un debuttante, semmai era guida alla 17esima partita in A, quello di Juventus Cagliari, che per l'appunto di rigori per falli di mano in area juventina non ne vide due. Ma tutto questo è assolutamente sterile e stucchevole, ed è un peccato che sia un dirigente ad innescarlo e non invece, come sarebbe più normale, e non dei tifosi. Alessandro Pedrazzini scrive una mail molto divertente, ma non solo divertente, è una riflessione, vuol fare un'osservazione su Ibrahimovic e l'ennesimo episodio disgustoso che lo riguarda, cioè queste mani addosso di cui lo svedese ha il vizio. Mi chiedo perché a loro sia giustificato tutto. Le garantisco che anche nelle cucine dei ristoranti dove io lavoro la tensione a volte è alta, ma allora che si fa? Si prende a schiaffi un cameriere o lo si minaccia coi coltelli? Questi personaggi ci hanno davvero un po' stufato, sono d'accordo. Infatti quello che io trovo molto fastidioso è che il pubblico accorra a comprare le biografie, no? di questi, quella di Ibra è andata, non dico a ruba, ma insomma quasi. E sinceramente non, è un tipo di curiosità che mi sfugge, quella di leggere il dettaglio delle prodezze di un tipaccio veramente, no? Come certamente di un bullo, di uno smargiasso, come oggettivamente è Ibrahimovic, perché le prove ormai sono tante, al di là del suo valore assoluto da calciatore, che è completamente un altro discorso. Antonio Milano, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Intervenivo sempre per questo discorso di Ibrahimovic che stava citando adesso la mail. Io sono un tifoso milanista, premetto, e premetto che sono pienamente d'accordo sul fatto che lui ieri andasse espulso e sconterà le giornate che le danno, perché quello che ha fatto è sbagliato. Così come mi sembra comunque anche completamente sbagliato Aronica, che prende per il collo Nocerino e dopo comunque più o meno forte dà uno schiaffettino anche lui a Nocerino. Quello che però volevo sapere cosa ne pensava lei, e certi giocatori come Aronica, che io ogni volta che vedo il Milan-Napoli ha sempre qualcosa da dire, sempre una polemica, è sempre a provocare gli avversari, me lo ricordo anche da Messina-Milan, ecco, questi giocatori che vengono in campo solo per provocare o menare, come Aronica, in qualche modo, secondo lei, non andrebbero altresì puniti o con delle prove televisive o con qualcos'altro, stante l'errore di Ibrahimovic, per carità? Volevo sapere cosa ne pensava. Ma io penso che i difensori che provocano o che menano siano tanti, siano la maggioranza, perché fa parte anche questo del loro mestiere, cioè questo tipo di devianza fa parte. Aronica, le dirò, non mi sembra più scorretto di altri, non è certamente un giocatore di esemplare correttezza, ma non mi sembra più più scorretto di altri. E comunque, non so, l'altro anno questo del Bari si becca un cazzotto in pancia dai Ibrahimovic, poi arriva l'insulto a Guardarini a Firenze, e poi ancora. Allora, sarà che Ibrahimovic viene provocato, o sarà, ripeto, che il suo sentirsi grande e grosso, oltre che profondamente bullo, lo porta comunque a questo tipo di eccessi? Cioè, io ricordo una sgradevolissima polemica televisiva con Sacchi, non dico arrivando alle minacce, ma quasi, proprio tipica, no? del bullaccio. Sacchi non mi è simpatico, non mi è mai stato simpatico. Se qualcuno dialetticamente lo sistema quando magari fa il fenomeno, non sono io a piangere, certamente non sono il primo. Però io ricordo una cosa, un episodio di una sgradevolezza assoluta proprio combinazione da parte di questo Ibrahimovic, di cui, ripeto, poi si corre ad acquistare la biografia. Giampiero Torino, buongiorno. Pronto? Dica. Buongiorno. Senta, io condivido quello che è stato detto su Marotta. Mi chiedo solo una cosa: ma Marotta è veramente quel fenomeno che pensiamo che sia? Ha portato a Torino nel qualcosa come 24 calciatori in 2 anni, e la squadra è quella che è, bella, carina, simpatica, però è quella che è. Giampiero, io non ho contezza della etichetta di fenomeno appiccicata a Marotta, sinceramente non credo che faccia parte, no. Del no? No, lei non gliel'ha mai data, no, sicuramente. No. Ma me lo stavo chiedendo io, perché so che quando doveva venire a Torino, già prima di 2 anni fa, se ne parlava come di un dirigente del calcio di eccezionale esperienza. Questo è quello che leggevo sui giornali, non Tutto Sport e non la Gazzetta dello Sport, sui giornali normali, La Stampa, Repubblica, Corriere, eccetera. Non lo so, Giampiero, io non vorrei essere sgradevole, certamente non ho nessun titolo per distribuire patenti di abilità o di bravura o tantomeno di fenomeno. Resterei a ieri, insomma, indubbiamente qualche mossa di questi anni ha lasciato perplesso. Io mi sono fermato al Toni dello scorso anno e direi che mi era bastato così come esemplificazione. Però, detto questo, che quelle sono sempre valutazioni estremamente soggettive, in cui ogni tanto hai ragione a criticare, ogni tanto magari no, stavolta straragione su Toni, ma insomma, al di là di questo, resterei sugli atteggiamenti, sulle posizioni. Quello di ieri è un atteggiamento profondamente sbagliato, perché se Marotta esce e dice, beh, vi ha giocato maluccio oggi, il Siena si è portato via un punto con pieno merito, anzi si sarebbe portato via un punto con pieno merito se avessimo segnato il rigore che l'arbitro avrebbe dovuto ad ogni costo vedere, beh, era un'altra storia. Metterla come l'ha messa, sinceramente, è sgradevole, insomma, non è da dirigente di grande squadra, però insomma, dirigenti di grande squadra in giro che siano esempi di luminosa sportività ne vedo pochi. Daniele Padova, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io volevo intervenire e alzare ancora forse un po' il tiro in maniera pacata, rimarcando quello che ha detto lei prima, cioè sull'argomento Marotta. Credo che questo dirigente comunque interpreti la volontà della società e della dirigenza, intesa come presidenza. Cioè, se non sbaglio, anche la settimana scorsa Andrea Agnelli è ancora una volta uscito rimarcando ancora il trito concetto del fatto che oggi sia il più bravo di tutti, cosa peraltro che può essere vera, ma non è questo il punto di quelle che sono le riflessioni che si dovrebbero fare in questo periodo. Siamo in un periodo di sobrietà presunta o di ricerca di sobrietà, e questi dirigenti, ma si può mettere in mezzo anche Galdiani e tanti altri, certo. Non mi sembra assolutamente siano all'altezza. Volevo semplicemente dire questo e nient'altro. Daniele, le dirò che di quell'intervista ad Agnelli non è stato il riferimento a Moggi che mi ha colpito di più, perché se parliamo di competenza calcistica Moggi era davvero il più bravo di tutti, no? Poi il problema erano i sistemi magari che usava. Quello che mi ha colpito di più di quell'intervista ad Agnelli è che il suo idolo sia Montero. Cioè, a parte che Montero è il recordman assoluto in Serie A di espulsioni, che sono 16 in A e 21 in carriera, ma insomma, non lo so, io ero rimasto a un Agnelli che è scomparso purtroppo da tanti anni fa e che era lo zio dell'attuale presidente, il cui idolo era Sivori, ed era in dubbio dopo che aveva visto all'opera e comprato e visto all'opera Platini, era in dubbio tra Sivori e Platini. Ecco, io che un presidente abbia come idolo assoluto della sua vita Paolo Montero mi lascia così, mi lascia un po' perplesso. Maurizio Caltanissetta, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno direttore. Direttore di che? Io volevo salutare tutti questi juventini che hanno telefonato stamattina. Giustamente io faccio, do l'esempio anch'io, ecco, da tifoso milanista io dico che sono rimasto basito invece dalle esternazioni di Galliani sulla possibile squalifica di Ibrahimovic. Cosa diciamo a proposito di questo? L'abbiamo già detto prima, la seconda voce che ho mandato, infilandolo in un elenco di, come dire, adesso non dico intimidazione nei confronti del giudice sportivo, ma insomma diciamo per provare a indicargli la rotta, no? Ieri tutti hanno indicato la rotta, la lasciamo stare poi a ruotare, ma sia Galliani che Marotta in questo si sono distinti in questa cosa, perché Marotta ha mandato messaggi chiari non solo al designatore arbitrale, che ha già risposto da par suo, ma insomma diciamo un po' alla categoria arbitrale, no? Che ci vuole più rispetto. Pensi un po' cosa vuol dire quando, no, la squadra attualmente più forte, perché la verità, ti manda a dire al suo dirigente delegato che ci vuole più rispetto per quella squadra. E Galliani ha fatto altrettanto la sua parte, cioè ha anticipato quella che dovrebbe essere una sentenza corretta. Comunque, io ringrazio anche lei e prendo buona nota di quest'ultimo messaggio, che è Gregorio da Catanzaro, che dice: bene, oggi, caro lei, l'antidoping per gli ascoltatori del lunedì sembra aver funzionato. In effetti sono piacevolmente sorpreso da questo. Ma che gol ha fatto Palacio? Domanda retoricamente Franco. Ha fatto un gran gol, indubbiamente, come ha fatto un gran gol il primo di Natale, che a momenti stava per bissarlo ancora sull'1-0, e ovviamente la partita di Firenze sarebbe finita ben diversamente, come l'ha segnato uno assolutamente splendido, Giovinco, perché per quel controllo in corsa col destro, sollevando, attenzione, senza lasciare che il pallone toccasse il campo di patate, perché se la palla tocca il campo di patate il rimbalzo lo frega sicuro. Invece lui, proprio avendo avuto esperienze precedenti, riesce a cucchiaiarlo in quella maniera col destro, in torsione se lo porta sul sinistro con quel piccolo lob, e poi lo sistema nell'angolo dall'altra parte. Insomma, mi è sembrato veramente un grande gol, e non è il primo per Giovinco. Un attimo di pazienza agli ascoltatori già collegati, perché sentiamo un po' che cosa ha combinato oggi Nicola Filippone per il 6 febbraio, che poi vi spiegherò essere un giorno speciale, e vi spiego perché. Sembra ieri. 6 febbraio 1965. Stanley Matthews gioca la sua ultima gara, la numero 701, nel campionato inglese, nelle file dello Stoke City, che batte 3-1 il Fulham. Matthews aveva compiuto solo 5 giorni prima 50 anni e fissa così un record imbattibile, quello di giocatore più longevo del calcio inglese. Ma Matthews non verrà ricordato solo per aver saputo resistere oltre 30 stagioni ad alti livelli, giocando anche nella nazionale inglese per 23 anni. È considerato una delle ali destre più forti di sempre ed è stato nel 1956, a 41 anni, il primo vincitore del Pallone d'Oro. Grande signorilità da parte di Nicola Filippone nel non ricordare che oggi, 6 febbraio, anzi per la verità il 5 febbraio 2007, ma insomma la domenica questa rubrica non c'è, è il quinto anniversario di questa rubrichetta Sembra Ieri, che mi sembra che continui a funzionare. Come il 6 febbraio è un giorno molto triste per la storia del calcio, perché è il giorno del disastro aereo di Monaco in cui perse la vita metà Manchester United, 6 febbraio 1958, e nel nostro piccolo però è anche per l'appunto il quinto anniversario di questo appuntamento curato da Nicola Filippone. Daniele ha chiamato da Caserta, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Salve, allora io, visto che sono intervenuto per tante mosche bianche, come ha detto lei, una mosca nera, diciamo, che interviene in questo momento, nel senso che io sono a favore delle dichiarazioni di Marotta, sono juventino, sì. Ma credo che anche l'intervento del direttore generale della Juventus sia non solo imputato forse alla partita di ieri, dove la Juve non meritava magari di vincere, ma credo che sia forse un discorso che va ampliato a 20 giornate di campionato, e di cui la Juventus, diciamo, ha avuto un solo rigore a favore. Un po' strano, ecco. Ma ascolti, ma ce n'erano altri, perché anche questa è stata un'altra cosetta non proprio felicissima. Cioè, sono stati, io glielo domando in buonissima fede perché non ho idea, sono stati negati dei rigori alla Juventus in questi anni o è una mazzarrata generica? In questi mesi, intendo, o è una robetta alla Mazzarri così, tanto per portarsi avanti? Ah, la robetta alla Mazzarri no, però credo che, insomma, una squadra che comunque ha del terzo, quarto attacco, credo, della Serie A, comunque credo che qualche azione da gol li faccia. Ma qualche azione da gol, sono d'accordo, ma c'è qualche azione incriminata da gol in cui non le ricordo. No, perché allora capisce che qui è come il possesso palla, cioè se mi dà qualche parametro. Era una controdomanda che avrei fatto volentieri ieri sia a Marotta che a Conte quando hanno detto questa cosa, però non l'ho sentita fare e quindi non abbiamo la controprova. Si vede che sulla base di quello che hanno detto e che sta dicendo lei, ci sono stati altri torti arbitrali nelle precedenti 20 giornate. Strano, perché al primo vero torto arbitrale, che è quello di ieri, questi hanno giustamente alzato i toni. Strano che non li avessero alzati fino ad ora, molto strano, vuol dire probabilmente che non era ancora accaduto niente. Vittorio, Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno Garanzini, ben trovato. Dica. Sono un tifoso simpatizzante milanista. Sì. Vorrei intervenire perché Galliani qualche tempo fa ha ricevuto, mi pare, un premio come miglior dirigente sportivo. Sì. L'avrebbe legittimato se ieri sera, invece che fare quelle dichiarazioni, avesse detto che lui squalificava 3 giornate Ibrahimovic. Che l'avesse multato di conseguenza, perché questo ha fatto 30 metri passeggiando, quindi lontano dal parapiglia, il modo in cui ha dato la manata guardando l'arbitro per essere sicuro di non essere visto, non pensando anche in modo stolto che ormai con le telecamere si vede tutto. Adesso mi spiego perché il Barcellona l'ha svenduto al Milan, perché non andava d'accordo con Guardiola, perché lui rimpiange Mourinho e Mourinho rimpiange lui. Questo, assieme alle altre perle, è la dimostrazione di tutte queste cose. Lei ha fatto una specie di prova del 9, no? Tra l'altro si rese protagonista di un episodio analogo anche con la maglia del Barcellona, e credo che beccò 3 o 4 giornate di squalifica anche là, non ricordo esattamente quante, ma certamente è successo, e ho anche rivisto un'immagine. Franco, chiamato da Como, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. Provo così a scuoterlo un po' da questo torpore. Detto proprio in parole decise, la Juventus si ama e non si discute. Credo che le dichiarazioni del dirigente, il dottor Marotta, sono date da un susseguirsi di discrepanze. Io ricordo bene il fallo della prima giornata con un calcio nel sedere a Madri, una cosa che non ho mai visto. Ricordo vari rigori dati in questi anni, da Calciopoli in poi, con una... In questi anni? Anni? In questi anni agli avversari. Franco, allora... Dottore, dottore non lo sono, e soprattutto detesto essere chiamato dottore. A Napoli non hanno fatto giocare, sapendo che poi il tempo migliorava, e quando invece a Roma si è giocato, questo è un pro-Inter come intervento, poi viceversa, perché non abbiamo giocato a Parma... tantissime polemiche. Abbiamo un presidente di Lega come Galliani e un proprietario della Telecom, un ex presidente di Lega come Galliani. Anni, sì, insomma, diciamo che dopo tante mosche bianche un intervento in nero ci voleva e riequilibra la situazione, magari un po' più documentato, Franco, già che ci siamo, poteva anche non guastare. Luigi da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono l'altro nero che le serviva per i bianconeri. Ho risposto al suo appello per un qualcosa da dire pro Marotta. Benvenuto. Diciamo così, ha torto nella sostanza, nel senso che gli errori arbitrali alla fine dell'anno poi si equilibrano, e questa è stata la mia tesi di juventino che mi difendevo dalla Juve ruba per 20 anni. Però dal punto di vista della moina che fanno i presidenti, i giornali, i giornalisti, le trasmissioni, far notare che in questi ultimi anni dopo Calciopoli dare un rigore alla Juve significa quasi fare una cosa assurda, cioè veramente deve essere strameritato come quasi una donna che fa carriera. Direi che insomma andava fatto notare, insomma, e quindi direi che non dico il rispetto che sembra un po' una cosa mafiosa, però un po' più di attenzione a non aver paura a dare un rigore alla Juve, in qualche modo era giusto sottolinearla. Ecco, mi limito a dire questo. Roma rotta. Grazie, grazie Luigi. Io invece mi limito a far notare, in finale, visto che nessuno l'ha fatto notare, la differenza di stile nella fattispecie, se parliamo di falli di mano, tra Milan e Juventus. Non lo dico molto volentieri, però lo dico. Mi è sembrato che per un fallo di mano clamoroso, che aveva già comportato la concessione del calcio di rigore, poi annullata dall'infelice decisione di un guardaline, all'origine una sconfitta del Milan non più tardi di 4 giorni fa, io non ho sentito alzarsi là i particolari da parte del Milan, che ha detto per bocca di Allegri di aver meritato quella sconfitta con la Lazio. Mi è sembrato nel caso di ieri di sentire invece toni leggermente diversi, soprattutto, ripeto, da parte di Marotta, perché Conte alla fine anche lui ha battuto su questo tasto, ma dopo aver a lungo ripetuto che la Juventus non aveva giocato col Siena la partita che si sarebbe aspettato. Andrà meglio domani. Grazie a Roberto Scaltritti, a tutti gli intervenuti, a Roberto Scaltritti in regia e a Franco Piantanida in redazione. A tempo di sport.